Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. La deprivazione di sonno può interferire sullo sviluppo cerebrale dei nostri ragazzi e slatentizzare nei soggetti predisposti alcune patologie psichiche. A Obiettivo Salute il professor Mencacci, direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale del Fate Bene Fratelli e Sacco di Milano, è autore di Quando tutto cambia, la salute psichica in adolescenza. I ragazzi tra i 12 e i 25 anni, circa 800.000, dormono meno di 6 ore per notte. Il sonno è stato individuato come uno dei fattori di maggiore impatto sulla possibilità di sviluppo di disturbi d'ansia e depressivi. In maniera particolare, quello che si è visto è che la quantità di tempo trascorso sveglio può influenzare il numero di sinapsi che si formano o che vengono eliminate nel cervello dell'adolescente. E l'individuazione di come soprattutto alcune dipendenze comportamentali sull'uso dello smartphone, del cellphone e di tutte le altre tecnologie possa essere individuato come il mediatore più rilevante tra l'utilizzo eccessivo di smartphone e lo sviluppo di problematiche psichiche proprio legato all'impatto sulla qualità del sonno del giovane. Con un finanziamento di oltre 6 milioni di euro da parte della Commissione europea parte un progetto di ricerca clinica indipendente volto a verificare l'efficacia terapeutica di un nuovo farmaco per la cura della SLA. A Obiettivo Salute il professor Alberto Albanese, responsabile di neurologia Humanitas e coordinatore dello studio. La comunità europea ha riconosciuto l'importanza di questo progetto e lo ha finanziato con circa 6 milioni di euro. È un progetto che raccoglie i principali centri europei esperti nel campo della sclerosi laterale amiotrofica, una malattia neurologica terribile che però oggi si spera di riuscire a curare sempre meglio, e questi centri collaboreranno sotto la mia guida a cercare una nuova cura per questa malattia. Si tratta di sperimentare un farmaco in particolare che ha mostrato in modelli sperimentali di poter ritardare la degenerazione dei neuroni, quindi abbiamo dei dati anche clinici che devono essere validati a livello di uno studio ampio di dimensione europea. Per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 prosegue come sempre con Melog, io vi aspetto in diretta video. Se avete la sensazione di perdere l'equilibrio, di inciampare, di camminare sulle uova, di avere la testa tra le nuvole o vuota, questa è la puntata che fa per voi. Vi aspetto, un saluto da Nicoletta.